però come voglio. Luca, mi pare che tu come hai portato il canale, non fai il parlare della luce di sole. Che oggi? Marco le due. Come no? Marco le due, vuoi passaggi? Vado, lo prendo. Lo prendevo, lui mi sta bene, mi devo un caffè. Perché sono piccolo lì. Sono piccolo. E lì di te due? Non so niente, magari non vago una gig. Ma cosa l'ha arrivato Luca? Allora che ho preso mezzo da far vedere, non ho capito, cosa l'ha arrivato? Se mai è passato. Non guarda la mezza, non lo so pure. Sei andato. Torino, tu stai parlando, però non ho capito, non ci capirai, con chi ce l'hai, non riesco a capire con chi ti stai riferendo. Ce l'hai contro di me o ce l'hai contro qualcuno in particolare? No, vabbè, mi dico parlando di te. A te Robè non ti ho cercato, tu lo sai che io sono. Non ho fatto il tuo nome, Robè, capito? Ah, ma cosa ti stai riferendo a me? Io sono appena entrato in coso, su questo canale, sono entrato in questo momento, infatti non riesco a capire se stessi parlando di me o di qualcun altro. Io mi riferisco a altre persone. Vabbè, non ho fatto il nome tuo perché ti conosco. E dove sei? Non ho avuto mai problemi, non ti capito? Altre persone che mi hanno... Va bene, tu li facciamo parlare anche gli altri, se no non c'è spazio per gli altri. Dai, facciamo parlare anche a Luca. Come no, c'ero? Luca, non sei una bella che ci ha piazzato un uomo, no? Ehi, Tony, ecco la TV Frigio, cosa vai? Non ti sa spiegare bene se non è soccorsa, che tu non ci sei, cosa non fa? Cosa è successo? Perché Roberto si è riferito a cose che tu si stai già spaventando che io non ho fatto nome a nessuno perché né tu, che lo sai Luca che io ti conosco, non mi avviso mio, a Luca Coso, a Roberto, magari non lo conosco ma non sono reati. Non sono quelle che mi danno io, non capisco mai. Come fai a sapere un abito, Tony? Vabbè, insomma, è pietina mia. Dove sono siamo al cofano e troviamo lì. Vabbè, dopo faccio solo la fratella. Da parte mia è facile. E com'è? Ma abbiamo amici in comune, la cosa è facile. No, amici in comune no, ma è... Scusa, ripeto l'ultima parola. Ma sei promessa, Robè. Ma che promessa, cosa hai detto? Ma mi ascolti bene, Robè. No, l'ultima parola non ho capito, cosa hai detto, ripeti. Improvvetta. Ma cosa vuol dire improvvetta? Non riesco a seguire il discorso, mi. Boh, sarò un poco intelligente, però non riesco a seguirti. Tutto non è fa cazzo che non si cazzo non è. Allora, io dico una cosa solo. Come ciò? Ma c'hai paura? Io guarda, io parlo chiaro, guarda, no, non fai cazzo. Io non so, guarda, cosa... Che tanto è? Che promessa? Io non sto pensando né male di te, né... capito? Che ti ho detto qua? Il corso è raccomandare che io non devo pensare. Boh, tu ne fai quello che vuoi, io cosa vuoi che ti dica? Io a te non ti conosco, ti ho sentito qua la prima volta per radio. Tu dici che sei dove abito e cose, io non so niente di te, cosa vuoi che ti dica? Quello che faccio se faccio una sera mattina, caso vengo lì a... E tu come stai? Ma io? Guarda, la parte mia. Beh, dillo a... Luca, li conosce. Sono troppo tranquillo, capito? Anche io sono tranquillo, non bisogna essere nervosi, no, e poi cosa ti deve arrabbiare? Ma io facciamo parlare anche agli altri, però sono lì, dai, no, parliamo solo noi due. Ti prendi Luca? Luca qui. Filippo, non mi ascolti a me? Come? Dimmi, Tony. Ma l'ho visto, Non ho capito, Tony. Ho detto, una bella pizza. Io lo so. Sì, la casa. Sì, cosa posso dire? Tre capelli. Lì è vero, sì, tre capelli. Non ti dico altro. Ehi, ciao, Luca, ci sentiamo, Luca. Senti, ma tuo nome è Luca, vabbè, a casa mia l'ho vista, per guardare me la secque. Tony, come arrivo da te io? Com'è il segnale mio da te? Cosa? 6-9-20. Aspetta, 9-20, tu sei arrivato alla volta 9-20 qua, ma che altro è da Tony? Io sono morto a 5, sono andato con 5 a marzo. Sarò a. Sono santo, Papa, no, c'è un bel segnalone, magari la radio potrebbe alzarla un pochettino di più, però il segnale è eccezionale. Chiedi un controllo radio a vedere. Non te lo posso dire perché sto usando Migran Alan 18, tra l'altro non te lo posso dire, ma è che aveva recato un CS3 della Presidente Marte, non c'ho altro di più. Papa, la radio mia come mi dai? Mia, come mi hai detto, è lo stesso, pisci, no. Ci arriva meglio, io o Luca, dalle tue parti, Tori? Cosa? 6-9-20, qua tu. Una radio sopra 5, capito mio? Ah, e Luca invece come arriva? Luca mi fa sentire un coso, un quest'altro. Il segnale è più forte lui, perché io a 4 minuti tu arrivo 9, la radio piuttosto, che è meglio di radio, io o lui? Come segnale 6-9, Luca, come non lo sei, però viste sì, 9 come segnale, però la radio è più fuoco, più potente. La mia? Oh, guarda lì il quadrato. Vista roba, eh? Risolvo. Cioè, arrivo più potente di radio io da lui. Come radio, c'è più forte che già fa. Cappa, c'è di segnale lo stesso? No, segnale, c'è. Come segnale c'è più forte. Lo vedi come segnale? Che non ti arrivo lì a coso a dove stai tu, alla tua stazione. Ma non c'è un segnalone qua, qua sei veramente forte, se è meno di Luca, ma c'è un segnalone qua tu. Ma magari in modulazione, un segnalone in modulazione. Segnale radio, sei 9 tu, qua arrivi 9-10, Luca arriva a 9-20 qua, 25. E mi trovi, se parlo io, parlo Luca, Luca mi copre. Capa, vabbè, ma Luca è pure più vicino, devi considerare. Però tu c'hai un segnalone per arrivare da Usini rispetto ad altri. C'è un altro, chi c'è di Usini? Un altro ce ne mi pare. Ci sono io da Usini. Come la mia collega deve fare così informato. Se io parlo, come devo parlare? Se io parlo con Presidente magari, tu a Luca non lo ascolti. No, probabilmente è così, no, però andiamo sempre a parità di potenza, se tu sei mandato anche 300 watt è un altro discorso, io parlo 5 watt Luca e 5 watt tu. Secondo me Luca sta facendo con 6 watt e mezzo, e io sto andando con 5, il problema è diverso, capito? Io adesso in questo momento sto andando con 5 watt, se non di più. No, Tony, io sto usando il Midland adesso, 4 watt spaccati, non sto usando il Jackson. ma sono 4 vatti io, un vatti meno di te. Scusate un po', se io a segnare che tu mi arrivi tu qua a me a Usini, io non ti arrivo, che sei Santiago 9. E ti sei 9 lo stesso qua, sei Santiago 9. Fate conto, Roberto, quadrato si trova lì a Corso, alla... a metà, tra Usini e... Ormai è passante, non so. Nella posizione che sono. Napoli. Mi adesso restano se ne parla perché non so, non mi interessa. Perché mi ascoltano, la restano, come sto parlando adesso, forse in quel vatto mi ascoltano che ho restato. Ciao, basta che io li faccio, vado alla trattata, metto il portatile perché in 10 minuti mi sono affitti, sono un bel stanco, attacco il portatile. Ma lo puoi fare perché sono coreale, sono due KF. Ciao, passata, 2 minuti di bianco, dai. Bello, non devono partecipare e usare un opere, 40 canali. Mario, quello mi hanno detto, quello ti sto riferendo in questo momento. Aspettiamo adesso, guardi la verità, ma i radioamatori possono entrare in 27, però diciamo così, che dovrebbero entrare sempre con apparati omologati in 27, perché la legge dice quello. Poi ognuno di noi fa quello che gli pare e piace, capito? Io mi riferisco a uno, a un TD, oltre via via Raul Pio, che mi ha detto, nella 27, andiamo 27, Mario. Parliamo di 27. I CUS e poi radioamatori e poi noi paghiamo per 40 canali. Gli apparati che stanno uscendo adesso, se ce ne sono 400 canali, apparati omologati, in cui puoi anche modulare. A un certo punto radioamatori a patentini, a patente, radioamatoriali, sulla 27 non possono usare apparati professionali, a quello che mi hanno detto, a casa è passo. Ti hanno detto la verità. Cioè non è perché uno è radioamatore, usa la radio professionale in 27, capito? Usa sempre un apparato omologato in 27. Punto e basta, capito? Non è che poi anche noi qualche volta usiamo apparati non omologati, magari perché hanno le bande laterali, magari perché c'hanno i canali di sopra e i canali di sotto, per tante cose, in regola proprio non c'è mai nessuno. Però tutto sta al buon senso della gente di non andare a rompere, diciamo così, o a calpestare i calli a nessuno. E tutto si vive in armonia. Poi giustamente c'è quello che rompe i calli, c'è quello che rompe le scatole, c'è quello che è così, è quello che è colà, iniziano le puntiglie, iniziano le cose e non c'è niente che vada bene, perché se ti trovano il microfono preficcato, quell'altro li trovano l'antenna che non è adatta per quel tipo di frequenza, quella. Sono tutte cose che a questo mondo diceva qualcuno, vivi e lascia vivere, però se dovessero controllare tutto e tutti succederebbe quasi il fine mondo. Andiamo a controllare tutti i CP, anche se paghiamo le tavole e a farlo vedere come l'hanno fatto a me, virgolette a parte, se paghiamo 12 euro e le amatori che pagano 7,50 euro, hanno una potenza, perché a noi la potenza che danno gli amatori non loro ce l'hanno, perché loro ce l'hanno la patentino, io non saprei, non so cosa dire, madonna, loro possono la direttiva e oltre in più 400 watt. Qui c'è 400, se non che c'è il 9700. Ma quello lì è un altro discorso. Noi è come per la patente della macchina, Tony. Allora, tu hai la patente della moto e paghi più di quello della macchina. La patente della macchina paga di più di quello che ha la patente del camion, capito? È tutta una ruota. Più basso sei e più paghi. Più alto sei e meno paghi, anche perché loro, i cosiddetti radioamatori, parlano in tutto il mondo. Per parlare con tutto il mondo hanno determinate frequenze che devono anche loro rispettare, diciamo così. Non è che perché uno ha il patentino possa abusare, perché io sento con le orecchie, capito? E qualche volta vado anche al naso, diceva qualcuno, e niente, però anche se senti per finta di niente, ascolti, zitto, è mosca, è trombagliataso, capito? Perché non è detto che uno che ha la patente di infrazione non la faccia, magari quello lì ne fa più di noi che la patente non ce l'abbiamo, capito? È come quando stai imparando a guidare la macchina, no? Non c'è la patente di nascosto, cerchi di essere tutto precisino, perché sennò altrimenti ti fermano e magari rischi quello, rischi quell'altro, è così, è un po' tutta la malala della situazione, capito? Così che si vive, si lascia vivere, no, ma comunque ti hanno detto una cosa reale che si è sempre detta e ripetuta, che la 27 va trattata come 27, la banda radioamatoriale va trattata come banda radioamatoriale, noi abbiamo l'SVL e possiamo andare ad ascoltare le loro chiacchierate, diciamo, i loro QSO, però dobbiamo imparare a metterci anche la lingua nel sederino, perché qualche volta qualcuno dice una parola in più, l'altro la capisce male e succede che poi ci sono i litigi, i bisticci e le cose, e non vanno bene. La 27 è grande, però è anche tanto piccola, la gente mormora e non va bene, perché se uno mormora, dice, cosa me lo sono pigliato a fare l'SVL, non serve a niente, capito? Perché uno deve ascoltare, poi non è che puoi parlare di quello che hai sentito, di quello che non hai sentito, di partita di non aver sentito niente, capito? Perché poi magari se lo trovi nel verticale la persona gli dice, ti stava ascoltando, però lo stai dicendo solamente a lui, capito? Perché non lo puoi divulgare a nessuno quello che tu senti in radio, te lo devi tenere per te e buh. Questo è ovvio, ma non è che uno va a svelare le cose, ma io certe volte, guarda, faccio molto, molto, molto ascolto. Proprio sicuramente faccio molto, molto ascolto. E certe volte seguo delle cose giuste, delle cose ingiuste. Ti faccio un corso adesso, una ragione, te ne faccio una ragione adesso, perché non so, dai, se un amico ha fatto male oppure se un amico ha fatto bene, ti parlo solamente 7. Perché si trovano anche solamente 7, ci sono apparati omologati che hanno 400 canali, non lo metto in dubbio. Addirittura, esatto, questo qua è... Prete, cosa ci fai in questa banda? Questo sta usando un apparato omologato PDT a darti proprio il numero della omologazione, non te la posso dire. Prete, questo, cosa ci fai in questa frequenza? Io in un apparato omologato, Mario, posso modulare. Certo che puoi modulare, comunque apparati omologati con 400 canali non ce n'è, perché ci sono 40 canali in AM, 40 canali in FM, però è sempre omologato, e poi ci sono 40 canali in USB e in RSB e diventano 40, 80 e 160. Tutti coloro che hanno un canale in più, uno in più, vuol dire che non è omologato. Tutto lì. Siccome uno non è che va a dire all'altro, ah, stai parlando con un apparato non omologato, però quello che è la contravvenzione per l'apparato non omologato è la stessa cosa per il microfono amplificato, così che se dovessero controllarsi, facciamo tutti quanti, camere eco e tutte quante le cavolate che poi seguono. Avere chi c'ha lineari, chi c'ha quello, chi c'ha quell'altro, così che uno fa finta di niente e niente, si fa la sua chiacchierata e boom, e tutto finisce lì. È inutile stare lì a parlare di questo, parlare di quello, io tiro, io faccio, io mollo, tanto non serve a niente, serve proprio a nulla. Quando uno si fa la sua chiacchierata tranquillo, sereno, poi una volta che chiude tutto un altro mondo, capito? Io metto l'accendo perché molte volte sono da solo e mi fa compagnia, ma se no proprio non. E poi tu mi dirai, ma se bisogna il baracchino, c'è la televisione, c'è il computer, c'è la PlayStation, si fa tante cose che uno per distrarsi si può fare, ma a me piace scambiare quattro chiacchiere sempre con gli altri, parlare del più del meno e cavolate varie, anche perché parlare di cose private non ne frega niente a nessuno, è così che si parla solo del più del meno. Sì, chi chiama? Bella, chiamo, chiamo. Comunque,